Faggoso, benvenuti. Buonasera. Episodio importante in cui parleremo ASMR per dare un significato a quello che abbiamo appena guardato. Appena, non lo so, in realtà. Con me ci sono Andrea e Jacopo, entrambi Ciao. molto su di morale. Freschi come una rosa. Freschi come una rosa. E quindi, bando alle ciance, cominciamo subito a registrare. E comincia subito a fare l'introduzione Jacopo. Perché è proprio lui che ci ha suggerito questo film, Oh pur no, sapendo che è un film biografico. è colpa mia, no, allora io avevo detto che questo film era un film a doppio, non solo autobiografico, ma anche musical, c'è anche con le canzoni dentro, e Salla ha detto no, no, va bene, lo guardo, lo guardo, quindi è colpa di Salla, cioè. Io avevo solo detto che tra tutti i film autobiografici e musicali mi è piaciuto perché non è autobiografico e non è musicale. Rispetto a Roofman, è molto meno interessato alla realtà, e è molto più interessato alla droga. E quindi mi è piaciuto di più. No, a parte gli scherzi, io questo film l'ho conosciuto, cioè ho saputo che esisteva da un film che parlava in generale delle biopic musicali e di come facevano schifo, fino a che a un certo punto non sono usciti fuori dei film strani tipo questo, o anche il film quello di Robin Williams che fa, cioè che è tipo una scimmia, non ho capito. Siccome Non Robin ho Williams non mi interessa, vabbè, presente. No, è un film. questo A me beh, Williams mi piace. Robin Williams non fa impazzire. Oddio, potrei guardare anche quello, però tra quelli che aveva elencato questo tizio, mi ha stimolato la curiosità questo qui, perché parlava di una band. Allora, che cos'è Kneecap? Facciamo un'introduzione alla Salva, scusate. Kneecap è un film del 2024, correggimi Salva se non sto facendo No, un'introduzione è giusto, è abbastanza giusto. sallosa. È un film del 2024, comedy drama, diretto e scritto da Rich Peppiat, che non so chi cazzo è, che è un tizio irlandese, è il suo primo film, il suo primo lungometraggio. Minchia, come debutto ci sta, che parla della band che si chiama Kneecap, che è una band irlandese che canta principalmente in irlandese. Di Belfast, l'Irlanda del Nord. Il film in realtà non è esattamente, diciamo, non è proprio esattamente la loro vita, anche perché tipo il padre di uno di loro è Michael Fassbender, Beh, tanta roba però. tanto Averci alla sigla. padri così. Non te lo aspettavi. Io non me l'aspettavo, non sapevo ci fosse anche lui. Ah, no, no, ne, io non mi aspettavo niente, non mi aspettavo, cioè, non sapevo neanche di cosa parlasse il film, quindi. Io avevo aspettative basse perché comunque pensavo, vabbè, a me non piacciono questo genere di film, nessuno dei generi di film di solito. Invece, boh, alla fine mi sono divertito, cioè, il film è abbastanza divertente, se non sapete nulla potete andarlo a guardare anche voi e venire stupiti da questo film, però più o meno è, in un certo senso, è la solita cosa, no? Cioè, a grandi linee è la solita storia di una band. Di una band hip hop che si forma abbastanza dal nulla, dal disagio, però incastrata in un contesto un po' strano che è quello irlandese in generale, che non è esattamente equivalente a, non so, Chicago o Los Angeles, e quindi è un po' particolare per quello. I protagonisti sono gli stessi della band, quindi c'è questi Pronuncia i nomi. nomi. Mohara, non lo so come si chiama, Mochara, Liam, che è, beh, uno dei due cantanti, o Anait, non so come si pronuncia, non conosco l'irlandese. Poi c'è l'altro che è, oddio, lo dicevano, lo pronunciavano nel film anche, oddio, forse è tipo Naishe Sì, è una cosa del genere. Mo Irlandesi che vabbè, pronunciano. non lo so. Un nome un po' difficile da pronunciare. E l'ultimo che è DJ Prova e Provai. DJ qualcosa. Questi tre sono i membri veri della band. E in più ci sono, vabbè, Josie Walker, che in realtà l'ho già vista in qualche altro telefilm o qualche altro film come che fa il detective. Poi c'è altra gente, beh, abbastanza sconosciuta, e poi c'è Michael Fassbender, Sì. che fa il padre di coso, di Mogwai. Sì, d'altronde ha origini irlandesi. Sì, e tedesche. No, Sì. vabbè, secondo me funziona, cioè non lo so, la No, parte vabbè, i che gli hanno parti scelto. somatici poi sono molto irlandesi. Sì. Sì, diciamo la parte che hanno scelto per Fassbender è inventata, cioè il padre di questo qui non era davvero come posso dire, un militare, cioè un terrorista irlandese, però comunque in realtà era abbastanza, cioè la parte secondo me vera è l'importanza che il film dà alla lingua irlandese in generale, alla storia irlandese. E alle droghe. E alle droghe, Esatto. esattamente. Niente, Beh, allora, boh, questa. la RAD esisteva davvero. Sì. La Republican Action Against Drugs, che è vabbè, l'associazione che, diciamo, sono i primi che li vogliono vandalizzare, picchiare, eccetera. E sono sempre dei vigilanti, un gruppo non proprio militare, ma neanche paramilitare, ma quasi, che poi si definisce come nuovo IRA. Sì. Però sì, il resto è tutto. Sì. Che cosa, boh, non lo so, strana come tipo di A me è organizzazione. piaciuto. Allora, è figo, è abbastanza figo come ritmo e tiene sempre bene. Cioè, non ha mai né cali né cose strane. Comunque sai dove va a parare, ovviamente, perché il film è su quello. Cosa è Oddio, successo? È morto qualcuno. ha toccato in realtà. Però. Questo è merda finora, quindi volevo un attimo. Sì, esatto, hai dovuto fare un po' di rumore. No, però cioè, riesce comunque a tenere sempre il ritmo abbastanza crescendo, comunque non ci sono mai dei cali troppo noiosi, nonostante sia, perché non è la vita reale di qualcuno, ma è un pezzettino di vita di questi tre che si incontrano. E la musica mi è piaciuta, anche se non, vabbè, ovviamente non ho capito una sega della maggior parte dei... del rap, perché loro in realtà è carino che ti mettano un po' di parole scritte, cioè come stile grafico è molto figo, perché rappano in irlandese, ovviamente il film è in inglese, ma chi cazzo sa l'irlandese nel resto del mondo, però mi è piaciuta la musica comunque, nonostante non sia il genere musicale che ascolto, e ci sta molto bene, cioè è integrata molto bene nel film. E, boh, in generale è carino, cioè, se passare un paio d'ore, quanto dura? 1 ora e 40, mi è piaciuto parecchio. A sorpresa. Attenzione. Sì. Attenzione. Ma allora Poi c'è cosa ti è successo? tutta... Sei cambiato? Vabbè, però non è, ripeto, non è autobiografico letteralmente. Cioè, è veramente un pezzettino della loro vita, quindi è proprio una scelta di cose, se è ambiente, quanto durerà in tutta la storia? Meno di un anno. Sì, 1 o 2 anni, tipo. E quindi è abbastanza veloce, sono riusciti a scegliere appunto delle scene con un ritmo sostenuto. Alcune cose sono abbastanza irrealistiche e un po' stereotipate. Per esempio la parte della poliziotta. È abbastanza assurdo, Sì. non so se è reale, però fa abbastanza ridere come o la sua ragazza che si tromba e che dice viva gli inglesi e lui dice viva gli irlandesi e si amano. Secondo È me molto quella è carina. realistica. Quella è la parte più realistica. Sono delle scelte anche di come sono messe in scena, che sono, cioè, secondo me riescono a mantenere sia il ritmo un po' più veloce, sia un po' di comedy, cioè ti passa abbastanza. E la musica, appunto, secondo me è integrata molto molto bene, è molto carina e ci sta molto bene. E non è proprio un musical davvero, però cioè riescono a mettere insieme le parti in cui loro cantano con le parti in cui lui fa musica, con le parti in cui diciamo la musica lì, perché poi non è così presente la loro musica all'interno, c'è ma non è così presente, non è costante, esatto, però quando c'è è integrata molto bene, anche se non sono loro che cantano in una canzone, in un concerto, è molto figa, è molto, sì, è... Boh, mi è piaciuta molto. Va bene, Andrea? No, beh, sono abbastanza d'accordo con voi. La musica in realtà però a me non è piaciuta, diciamo che non è per me, diciamo, il genere. No, beh, sì, chiaramente, ma penso anche perché non è ascoltabile da noi, cioè non capisci un cazzo. No, però il fatto della lingua invece, cioè, l'irlandese, la scoperta dell'irlandese è stata una sorpresa piacevole, mi è piaciuto un sacco, e non conosce una, a parte, vabbè, non si capisce una sega, però è divertente da ascoltare, è molto carina. Poi scoperto, cioè, non so, che il fatto che loro la studiano proprio anche a scuola, cioè nel senso, in Irlanda come lingua, sì, una cosa interessante, no? carino, è proprio una lingua diversa, cioè completamente diversa, sì, non c'entra neanche un cazzo di niente, no, comprensibile. Beh, sono contento che vi è piaciuto, non me l'aspettavo, cioè, perché è abbastanza strano. Il film, comunque, allo stesso tempo, banale, ma anche... Sì, l'inizio strano. Mi sembrava Jay e Silent Bob, poi grazie a Dio è cambiata un po' la... Sì, non ha fatto scalpore, comunque su un budget di 4 milioni e mezzo ne ha fatti 5, tipo, al box office, 4 e 9. Però secondo me, cioè, tra tutti i vari musical, biopic, eccetera, non so, si distingue abbastanza anche grazie a Fassbender, secondo me, cioè anche come storyline, come integrazione. Ma secondo chi l'ha scritta la storia? Lui, il regista? Il regista, sì. È stato bravo. Cioè, è ovviamente una ragazzata come tipo di storia, però funziona. No, anche come è girato, come è fotografato, cioè secondo me non è un film che sembra così economico, tra virgolette. Cioè, è un film comunque che a livello visivo è leggermente... Cioè, non lo so, mi è sembrato fatto bene, con competenza, e poteva costare più di 4 milioni e mezzo, non lo so. Ma Fassbender è costato 3 milioni di 4 milioni. Probabilmente. No, non lo so. Non so se l'ha fatto pro bono, effettivamente. Però il matrimonio all'inizio era vero. Alla fine si vede la foto. Non so se l'avete visto. Il matrimonio? Sai che all'inizio fa vedere... Ah, sì. Loro in mezzo al... Sì, sì, il matrimonio celtico, sì. Matrimonio che la polizia arriva e ferma. Sì. Molto bello. E non è neanche troppo politico, cioè lo è ovviamente, perché poi la band lo è, nel senso, comunque parla dell'identità culturale irlandese, però non è così, cioè non è del tipo... dovete compatirci, dovete empatizzare con noi, cioè è molto più libero, nel senso, semplicemente presentano la loro situazione e il loro punto di vista e buonanotte. Non c'è un, cioè non viene richiesto allo spettatore di empatizzare con loro e con la loro situazione, dire ok, sono gli indiani d'America, come no, sembrava all'inizio magari, e l'ho apprezzato, perché non è... È schierato, ma non è, non so come dire, non è così forte, cioè non è così... Anche perché è impossibile per noi empatizzare con una roba del genere, con noi inteso italiani, ma anche con un americano, immagino. Non so, cioè... secondo me è... più che non è schierato, non è troppo politico, secondo me fa un buon lavoro nel cercare di non fare la predica. Cioè loro stessi, i protagonisti, non stanno facendo una predica, stanno cantando in irlandese. Eh no, esatto. C'è una discussione a un certo punto fra Giorgia, tipo, quella, tra l'altro è stupenda, Jessica Reynolds, sembra, non lo so, secondo me è un'attrice, come si dice, stranascente, non lo so, mi è sembrata molto brava. Quando fanno la discussione con lei che dice, ma io sono inglese, cioè nel senso, lei non si era resa conto, no, del fatto che lui stesse cantando della Gran Bretagna, insomma, degli inglesi. Cioè, mi è sembrata una discussione molto semplice, molto pratica. Sì, ma che sì, dietro sì, nascondevano. Non sei tu il problema, ma è politico, ecco. È politico, sì, è storico, poi ovviamente sì. Perché lì c'è dietro tutta la parte, insomma, prima. E anche con Rad, cioè, potevano facilmente fare anche lì pontificare, stare lì a spiegare, invece alla fine è una ragazza, cioè, non arrivano a quel piano, non so come dire, cioè si fermano un po' prima, proprio sul pratico, su come si comportano verso loro due o tre. E ho anche apprezzato una storyline che è tipo storia C, storia, cioè, proprio secondarissima, che è DJ Prova, cioè è la storia di lui con la ragazza, cioè non lo so, che sì, il fatto non che lei niente. Comunque cioè hanno due modi di vedere la stessa, lo esatto. Stesso problema, sì. Poi c'è tutta la trama di, cioè la trama in realtà, la piccola storia di loro due che sono una coppia, ma non possono essere più una coppia perché lei è... perché lui è un tossico. Esatto. Si pisce addosso. Io pensavo avesse bruciato lei il garage, onestamente, però... Davvero? Ma sì, ho detto, boh, sicuramente è stata lei la... Io pensavo fosse stato il padre. Ah, addirittura no. Per un momento ho pensato fosse stato il padre. Vabbè. E niente, questo è quanto. È difficile da trovare, cioè non è, allora, diciamo, non è difficile da trovare, però è difficile da trovare in streaming, diciamo, in canali. E ha un altro problema per noi, che deve essere ascoltato forse in lingua originale. Vabbè, sì. Problema, nel senso, non può essere doppiato, o meglio, sì, può essere doppiato, ma perde molto della parte musicale, molto della parte della lingua, molto della parte degli accenti. Vabbè, chiaramente dipende dal tipo di pubblico, però ecco, non è un film che consiglierei a tutti, sia per la semplicità di trovarlo, sia per... Però se siete intrigati da questa mia recensione, io lo consiglio perché comunque non vi fa perdere troppo tempo e anzi vi potrebbe anche divertire, in alcune parti fa anche abbastanza ridere. Niente, va bene. Volevate aggiungere altro? Abbasso Inghilterra, viva l'Irlanda. Fanculo della Gran Bretagna. E tanto sono tutti inglesi loro, perché da Belfast non è che sì, vabbè. Però in che senso? Nel senso che anche vabbè. Se è una cultura diversa, il re è sempre re. No, ecco, vedi, allora dobbiamo ricordare. Ah, yeah. Sì, riguardiamo da capo. Basta. No, rivedilo, non hai capito. Si trasferiscono a sud. O... le loro unità di misura sono sempre le once, ecco, mettiamola così. Va bene, dai, grazie per averci ascoltato, andate a vedere Nika, pure andate a vedere qualcosa di più accessibile di cui parleremo settimana prossima, cosa che sicuramente piacerà al nostro pubblico, ma non a noi, no, non lo so. A settimana prossima. Ciao ciao. Ciao.